non ho scarpe per andare né una voglia per volere, non ho un soldo in tasca e non muoio per te. Una stanza che mi crolla, un rumore che mi sveglia e tu inutile figura, guardi me, guardi me, guardi me. Ti ricordi il nostro incontro, era lunedì. Guardi me e ti ricordi quando non stavamo mai così. Guardi me e vedi a un tratto due persone che non sanno più come può finire tutto, come se qualcuno è morto e certo non sei tu. E la rabbia che ti assale, la voglia di scappare e gli sguardi che si incontrano e non puoi dare sfogo all'emozione, ma non puoi lasciarti andare con inutili parole che sai già, che sai già. Una storia che finisce, due persone che ferisce, ma la polvere del tempo guarirà. Tutto sta a ricominciare, questa forza devi avere, e in quest'ultimo momento guardi me, guardi me. Guardi me e ti ricordi il nostro incontro, era lunedì. Guardi me e ti ricordi quando non stavamo mai così. Guardi me e vedi a un tratto due persone che non sanno più come può finire tutto, come se qualcuno è morto e certo non sei tu. E la rabbia che ti assale, e gli sguardi che si incontrano.